Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, benvenuti al podcast di Effetto Giorno. Al microfono, come sempre, Simone Spezzi. I nostri contatti, Effetto Giorno, @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. E poi, se volete, il mio account Twitter, Simone Spezia, è là che potete contattarci, dirci la vostra. Grazie per aver scaricato il podcast anche oggi. La bonus track, per così dire, di oggi è l'intervista estesa, ne avete sentito una parte nel corso della diretta, con Alessandra Poggiani, che è direttore dell'Agenzia Italia Digitale, direttore generale dell'Agenzia Italia Digitale, l'agenzia governativa che si occupa appunto del digitale per il governo, con la quale abbiamo fatto una bella chiacchierata a proposito tanto dei piani approvati ieri dal governo. Da precisare che si tratta effettivamente di piani, non c'è nessun provvedimento approvato, quanto della fatturazione elettronica, che diventa obbligatoria per le pubbliche amministrazioni a partire dalla fine di marzo, il che potrebbe creare dei problemi e degli intoppi, quantomeno soprattutto nei comuni piccoli e soprattutto per quanto riguarda le piccole imprese. Ci sembrava un tema interessante da affrontare. Naturalmente però la giornata non può che partire dalla cronaca e da quello che è successo ancora una volta al largo della Sicilia. 10 vittime per un naufragio. Il servizio. Sono finiti in mare dopo che il barcone su cui viaggiavano si è rovesciato nelle acque nere del canale di Sicilia. In 121 sono stati soccorsi dalla nave Dattilo della Guardia Costiera. 10 persone invece non ce l'hanno fatta, come spiega il tenente Sebastiano Miranda. Immediatamente sono stati soccorsi da parte di questa unità mercantile e di altre unità. Ma di queste 100 persone finite a mare, 10 non ci hanno fatta. E questa è soltanto la più tragica delle 7 operazioni portate avanti nella notte, in cui sono stati soccorsi 5 gommoni e 2 barconi, per un totale di 941 persone salvate, fra cui 30 bambini e più di 50 donne. Dicono di provenire dalla Siria, dalla Tunisia, dalla Libia. Ora saranno sentite le loro testimonianze, ma prima ancora che siano arrivati sulle coste siciliane sono scoppiate le polemiche politiche. A Roma e a Bruxelles ci sono tasche piene e mani sporche di sangue, ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, mentre da Forza Italia Laura Ravetto, presidente del comitato Schengen, si chiede a che cosa serva Triton, visto che interviene ancora la Guardia Costiera Italiana. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Su questi temi è intervenuta in giornata anche l'Europa. Ha detto che verrà accelerato il programma europeo sulle migrazioni, per quanto questo conti, naturalmente tra le mille polemiche che avete sentito anche nel servizio. E ha chiarito l'Europa stessa, nella persona di Timmermans, che è il primo vicepresidente della Commissione, che finché non viene pacificata la Libia sarà difficile riuscire a contenere il fenomeno. Il punto della Libia. Il punto della Libia è che la comunità internazionale sta cercando di muoversi. Nel prossimo mese probabilmente verrà presa qualche decisione, dovrebbero avvenire delle operazioni come per esempio il blocco di beni per alcuni personaggi nel tentativo di arrivare ad una pacificazione, ad una mediazione tra le parti, e però ancora nulla è stato messo in atto, mentre si valuta soprattutto da parte americana un'opzione militare. Di questo abbiamo parlato con Roberto Aliboni, che è consigliere scientifico dello IAI, l'Istituto Affari Internazionali, e ideatore e fondatore della Mediterranean Study Commission, la rete degli istituti di politica e sicurezza internazionale dell'area mediterranea. Siamo partiti proprio dalle azioni di pressione, tra cui il blocco navale, che può mettere in atto la comunità internazionale. Misure che lei ha menzionato sono misure più o meno adombrate o esplicitamente previste dalla risoluzione 2174 del Consiglio di sicurezza. Il blocco navale è un po' meno, ma le altre due, le sanzioni individuali e il congelamento dei beni, cioè praticamente degli averi libici nelle banche all'estero, sono misure che sono esplicitamente previste o che possono essere facilmente dedotte da questa risoluzione. E secondo lei funzionano, possono funzionare oppure no? Ma secondo me funzionerebbero, potrebbero funzionare. Quello che io personalmente non capisco è perché non siano applicate. Le potenze occidentali hanno da tempo scelto la strada della mediazione. Ora questa mediazione è difficile, è debole e deve essere sostenuta da misure adeguate, esattamente da sanzioni, da congelamento dei beni e altre misure che si possono individuare, però non vengono né concordate né applicate. Al Consiglio europeo del 9 febbraio la lista delle sanzioni, delle possibili persone a cui applicare le sanzioni è circolata, però non se ne è fatto, non se ne è fatto nulla. Brevemente, le sembra sensata l'ipotesi che si arrivi ad un intervento militare? Ma personalmente no, credo che i paesi occidentali abbiano fatto bene a respingere, dice, la provocazione fra virgolette dell'Egitto, che praticamente era un invito a intervenire dopo l'intervento che il Cairo ha effettuato su Derna con i bombardamenti. Un intervento militare in questo momento non serve a nulla, anche poi dal punto di vista occidentale non è chiaro contro chi e a favore di chi debba essere eseguito. Occorre creare le condizioni politiche perché un intervento nel quadro dell'ONU e nella legalità internazionale, un intervento militare di peacekeeping, abbia luogo. Però occorre anche sostenere meglio questo obiettivo politico, la mediazione in corso dell'ONU. Per la cronaca vogliamo partire da una storia che arriva da Torino e riguarda una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 21 che hanno deciso di fare l'amore in discoteca. Che cosa è successo? È successo che qualcuno li ha ripresi dall'alto e ha fatto girare questo video. È stata aperta un'inchiesta quando questo messaggio è arrivato alla stessa ragazza protagonista di quella scena. È stata aperta un'inchiesta perché lei ha presentato denuncia. Il problema è che questo video continua a girare su WhatsApp e c'è sostanzialmente non c'è alcun modo di fermarlo. Di questo abbiamo parlato con Fabio Roia, che è stato sostituto procuratore alla Procura di Milano e dal 1989 addetto al dipartimento competente per i reati in danno di soggetti deboli. Ci spiega Roia che in sostanza davvero non si può fare niente, eccetto che appellarsi al senso civico degli utenti. Sentiamo l'intervista. Credo che dunque, innanzitutto, essendoci stata una denuncia, c'è sicuramente un'inchiesta penale, quindi ci sono gli strumenti previsti dal codice di procedura penale, il sequestro probatorio preventivo del video. In questo caso ritengo che sia un problema tecnico, perché laddove si interviene, la polizia postale è un organo altamente qualificato, su fonti cosiddette aperte è semplicissimo il sequestro e il blocco del materiale. Credo che il problema riguardi WhatsApp, perché WhatsApp è una rete che in qualche modo utilizza dei contatti fra privati che non sono, come dire, fonti aperte, nel senso che se io e lei ci mandiamo un messaggio su WhatsApp, l'operatore sa che noi ci mandiamo il messaggio ma non è in grado di leggere il contenuto del messaggio. Quindi se questo video circola fra utenti privati utilizzando il circuito di WhatsApp, si può capire i contatti che avvengono fra privati ma non si può capire il contenuto del contatto. A quel punto come ci si muove in questo caso, dottor Roia, come ci si muove? Cioè, come si muove un magistrato? Che cosa può fare la polizia postale? Si può rivolgere a WhatsApp medesima chiedendo un intervento e questo è possibile oppure no? Si potrebbe fare un'intercettazione telematica qualora si fosse a conoscenza quantomeno dei soggetti che fossero nella disponibilità di questo video, però mi rendo conto che siccome internet è l'universo, WhatsApp è l'universo, Facebook è l'universo, cioè praticamente noi abbiamo a che fare con un mondo virtuale enorme, immenso, è molto difficile capire quante persone sono in possesso di questo video. Certamente le persone che sono in possesso di questo video dovrebbero, anche perché però potrebbero poi commettere un reato, perché parliamo di una divulgazione di un video che rappresenta dei contenuti sessuali espliciti, oltretutto in danno di una minorenne, quindi commetterebbero un reato, dovrebbero loro astenersi a questo punto dal diffonderlo. Questo sarebbe, come dire, un fatto di senso civico veramente minimo, ma anche di educazione alla legalità, perché chi diffonde questo video commette un reato. Da quel che ci ha detto dottor Roia ci sembra di capire che ci si può appellare al senso civico di queste persone e però in realtà le possibilità che hanno in mano gli inquirenti e gli organi di polizia su casi come questi sono praticamente nulli, perché è come se uno si scambiasse un video via MMS o metodi simili. Esattamente, se non sono fonti aperte, cioè se non si attingono i social network, Facebook e gli altri, in questo caso si possono intercettare, non si sa il contenuto delle conversazioni fra privati, ovviamente, ripeto, se ci mandiamo dei messaggini io e un'altra persona privati, non si sa il contenuto del messaggio, in questo caso bisogna ricorrere ad un'intercettazione di tipo telematica, ma ovviamente non si può intercettare tutti i possessori di un'utenza radiomobile, bisognerebbe capire e delimitare il numero delle persone. Certamente mi lasci dire che la storia è devastante, difatti da questo punto di vista occorre intervenire al di là della repressione necessaria proprio dal punto di vista della prevenzione, perché chi ha attivato e ha messo in giro questo video, un video comunque carpito a prescindere o meno dal consenso della ragazza, al di là della commissione di un reato che è stato posto in essere, certamente ha realizzato un atto veramente disdicevole, e questo è uno dei pericoli della rete che si insegnano a scuola sul piano della prevenzione dei ragazzi, perché molte volte anche inconsapevolmente ciascuno va nei propri profili Facebook e pubblica dei dati sensibili che poi sono oggetto di adescamento, di phishing, di grooming, di tutta una serie di attività che portano poi a situazioni devastanti, immagino per la ragazza, come quello di cui stiamo parlando. Altre storie di cronaca di oggi. Vogliamo raccontarvi di due sequestri molto diversi tra loro, di cifre consistenti di denaro. Iniziamo da quella che riguarda più strettamente il denaro pubblico, ossia il sequestro che ha riguardato l'ex capo, l'ex commissario degli scavi di Pompei. Un danno erariale da circa 6 milioni di euro viene contestato dalla procura regionale della Corte dei Conti per la Campania all'ex commissario delegato per l'emergenza degli scavi di Pompei, Marcello Fiori. Oggi, nei suoi confronti, i finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno eseguito un sequestro conservativo di beni sia al funzionario che ad altri 9 tra ex e attuali dirigenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e della Regione Campania, è stato notificato un invito a dedurre, poiché erano a vario titolo componenti della commissione ministeriale che aveva il compito di approvare il piano di interventi della messa in sicurezza e salvaguardia dell'area. Secondo la Procura, i lavori complementari realizzati nel 2010 per la fornitura di attrezzature per spettacolo e per l'allestimento scenico del Teatro Grande di Pompei sono esorbitanti rispetto all'obiettivo di messa in sicurezza, conservazione e restauro del patrimonio del sito archeologico. Parliamo di lavori affidati senza gara in violazione delle disposizioni emergenziali che imponevano al commissario di adottare alcune misure, tra cui la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per impedire il degrado dei beni archeologici, senza alcun riferimento ad interventi di allestimento o acquisto di attrezzature mobili per spettacoli teatrali. Lo stato di emergenza a Pompei era stato dichiarato nel 2008 a seguito di numerosi crolli, e nell'arco di 2 anni varie ordinanze di protezione civile hanno stanziato complessivamente 79 milioni di euro. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Il secondo sequestro invece riguarda dei nullatenenti che non lo erano. Sequestro avvenuto a Bologna, riguarda una famiglia, delle famiglie di nomadi. Conti correnti a più di 6 cifre, moto e auto di grossa cilindrata, appartamenti, terreni e persino un bar di lusso nel centro di Bologna. Milionari, ma per il fisco perfetti sconosciuti, in una parola nullatenenti. Sono 18 rom della provincia di Bologna per i quali è scattato il sequestro di beni e immobili. Ignoti al fisco, si diceva, ma tuttavia non alla giustizia, perché 18 soggetti hanno una lunga lista di precedenti penali. Reiterati delitti, furti, borseggi. Il tenente colonnello comandante del GICO di Bologna, Paolo Brucato. Noi abbiamo, in base alla normativa del codice antimafia, abbiamo verificato che questi soggetti avevano i presupposti oggettivi, quindi avevano delle disponibilità economiche sproporzionate rispetto ai loro redditi, quindi non avevano tendenzialmente dichiarazione dei redditi alcuna, risultavano come persone tendenzialmente indigenti. A fronte di questo sussistevano tutta una serie di reati, di delitti commessi, che quindi permettevano di applicare la normativa antimafia. E nel corso delle indagini è stato pure scoperto che uno dei rom aveva incassato per ben 4 anni una pensione, nonostante il titolare fosse morto, con conseguente danno per l'INPS di 34.000 euro. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo sul filo tra la cronaca e la politica adesso, perché il Friuli Venezia Giulia ha approvato una legge per il testamento biologico. La nostra Maria Luisa Pezzari ci racconta come funziona E abbiamo sentito anche Beppino Englaro, il padre di Eluana, che vive proprio là, in Friuli. Sentiamo. Non è un caso che sia il Friuli Venezia Giulia, terra di Eluana Englaro, la prima regione a dotarsi del registro per le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. Lo strumento con cui il cittadino può decidere se essere sottoposto a trattamenti sanitari in caso di perdita di coscienza permanente e irreversibile. La volontà del paziente, espressa quando era pienamente capace di intendere e di volere, sarà a disposizione dei medici attraverso la tessera sanitaria, che conterrà anche le disposizioni per la donazione di organi e tessuti. L'estensore della legge regionale approvata a larga maggioranza, Stefano Pustetto di SEL, parla di un grande passo in avanti. Non è pensabile che ogni comune faccia un suo registro, di qui l'idea di avere un registro regionale. È evidente che manca una legge nazionale. Attualmente le dichiarazioni anticipate di trattamento di per sé tout court non sono vincolanti per il medico. È vero che possono essere però un punto di appoggio molto fermo per sapere che cosa voleva o non voleva il paziente. Il tutto nasce da una petizione dell'associazione per Eluana, il padre Beppino Englaro. Io voglio che nessuno viva l'esperienza che ho vissuto io. Non c'è niente di più devastante che vivere quello che ha vissuto la nostra famiglia nella vicenda di Eluana, perché Eluana era una ragazza libera, forte, determinata, che aveva delle idee molto chiare riguardo alla sua vita. Noi abbiamo dovuto attendere 15 anni e 9 mesi. Per noi era già chiaro nel gennaio del 92. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al Consiglio dei Ministri di ieri, stavo per dire provvedimenti, in realtà il Consiglio dei Ministri di ieri di provvedimenti non ne ha varati, perché doveva dare il via libera a un disegno di legge sulla scuola che contiene tutti i provvedimenti della cosiddetta buona scuola, nonché la regolarizzazione di 140.000 precari. Doveva approvare il piano per la banda larga, per la banda ultralarga, per l'Italia digitale. Non ha approvato in realtà nemmeno quello. C'è stato un esame preliminare per entrambi i provvedimenti. Partiamo dalla scuola, perché è là che si concentra il problema, soprattutto per quanto riguarda i precari. E perché? Perché più arriva in ritardo il provvedimento, più ritarda l'assunzione di questi precari. Potrebbe scattare non questo settembre, ma il settembre successivo. Questo naturalmente crea qualche problema alle scuole. Il sottosegretario all'istruzione Faraone dice ad Alessandro Milan: beh, se il Parlamento non farà in fretta ad approvare questo DDL, potremo procedere per decreto. Da parte del Presidente del Consiglio al Parlamento su un tema così importante. Ci hanno detto in questi mesi che noi parlavamo di decreto di legge delega, che bisognava coinvolgere il Parlamento in una discussione che era così delicata come la scuola, e voi l'avete coinvolto. E quindi il Presidente del Consiglio ha ritenuto giustamente opportuno coinvolgere. Ma mi scusi, quindi voi dovete confidare in un Parlamento molto collaborativo, altrimenti... Sarà un governo molto rapido nel comunque non far venire meno l'esigenza delle assunzioni della riforma della scuola. Ah, come dire, il decreto come estrema ratio, cioè ve lo tenete... Siamo lì ad aspettare a braccia concerte se il Parlamento farà finire rapidamente o meno e poi ne prendiamo atto. Ma anche col decreto non è detto che le cose funzionino, perché le scuole si sono già organizzate, le iscrizioni online sono già avvenute, quindi inserire i precari non è facile, come ci spiega Mario Rusconi, che è il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Proprio come presidi abbiamo espresso le nostre perplessità, veramente le abbiamo espresse anche mesi fa quando si parlava del decreto legge, perché pensare ad un'operazione così in grande stile, 149.000, 180.000, i numeri poi cambiavano di volta in volta, precari immessi in ruolo, scontrava un po' con una visione realistica della situazione scolastica. Faccio per dire, le immissioni in ruolo vengono determinate dall'ufficio scolastico regionale e in grandi aree metropolitane, Roma, Milano, Bari, Napoli, Palermo, eccetera, le immagini come uffici ormai ridotti un po' a poche unità di personale, come avrebbero potuto, ci siamo chiesti, riuscire a immettere in ruolo talmente tante persone. Insomma, solo Roma probabilmente avrebbe dovuto immettere in ruolo fra le 15 e le 25, dico Roma intendendo dire Roma e il Lazio, fra le 15 e le 25 mila persone. Sì. Cioè, non, già mesi fa noi dubitavamo che ci fossero le risorse, le competenze all'interno degli uffici scolastici regionali, perché non è stato rinnovato il turnover ormai da anni. Quindi, molti... alla sostanza, Rusconi, anche se fosse arrivato decreto e se fosse arrivato ieri, comunque non ci sarebbero state possibilità di immettere questi precari al lavoro, o comunque ci sarebbero state molte difficoltà. Ammesso che non si voglia fare una sorta di sanatoria dicendo queste persone saranno immesse in ruolo, però poi rimarranno nei posti dove stanno, oppure se sono supplenti annuali fino a quest'anno rinnoveremo la supplenza. Cioè, ci sembra un meccanismo molto complicato. Non ultimo poi il fatto che probabilmente, questa però è una mia interpretazione che ho letto anche sui giornali, ancora più delle difficoltà di ordine tecnico per immettere in ruolo i precari, probabilmente sono intercorse anche difficoltà nella stessa maggioranza di governo per quanto riguarda tutto l'impianto della cosiddetta buona scuola, insomma, dalla valutazione dei docenti e dei presidi al venire incontro alle richieste delle scuole paritarie e così via. Mi sembra di poter dire anche come cittadino che molte delle tensioni politiche all'interno del governo e anche del partito di maggioranza si stiano un po' riversando su tutti i settori, ma in particolare anche su questo della scuola. L'altro fronte della politica governativa, ossia il piano per la banda larga. Cosa contiene questo piano? In diretta ce l'ha spiegato ottimamente, come sempre, del resto sono i suoi temi, Enrico Pagliarini. Sulla banda larga il governo ha fatto più o meno la stessa cosa che con la scuola, perché è vero che è la prima volta che un governo italiano, e questo è un dato positivo, presenta un piano per accelerare gli investimenti in banda larga, cioè per tentare di ribaltare le classifiche non solo europee che ci posizionano tra gli ultimi posti in Europa per velocità, ma non solo, anche per diffusione della rete internet. Ma è anche vero che il Consiglio dei Ministri ha approvato di fatto delle linee strategiche e non ancora provvedimenti operativi che avranno la forma molto probabilmente di un decreto, ma c'è anche la possibilità di emendamenti ad un disegno di legge che attualmente è in Parlamento. Allora, saranno sicuramente questi provvedimenti che ci faranno capire quanto questi obiettivi, che sono ambiziosi e molto interessanti, potranno essere raggiunti. Gli obiettivi fissati al 2020 prevedono di coprire l'85% della popolazione con velocità di 100 megabits, interessante, il 50% effettivamente collegato, quindi 85% potenziale, 50% effettivamente collegato, e il resto della popolazione da almeno 30 megabits. Di fatto sono gli obiettivi che ci impone l'agenda digitale europea. Allora, per incentivare questi lavori di cablatura degli operatori sono disponibili 6 miliardi di euro che dovrebbero essere veri, quindi non come è successo altre volte che sono solo annunciati. Ci saranno anche un mix di agevolazioni già previste, garanzie statali sui prestiti destinati a questi lavori e anche contributi per i cittadini che passeranno a connessioni veloci. Anche qui però dovremo vedere come saranno modulate. Vedremo anche quale sarà la risposta degli operatori, che devono presentare piani per utilizzare parte di questi soldi. Concludo dicendo che fra le misure che sono state annunciate ce ne sono alcune molto interessanti. Allora, la prima è un nodo molto spinoso: il servizio digitale universale. Cioè, significa che se uno richiede un collegamento ad internet, e parliamo sempre dei 30 megabit almeno, perché questa è la misura minima che prevede il piano, se uno lo chiede in una zona lontana dai centri abitati o comunque dove non c'è collegamento, gli operatori, se venisse poi approvato questo servizio digitale universale, dovrebbero intervenire. Bisognerà valutare come dovranno essere poi ripartiti i costi di questo servizio universale. Poi, altro punto molto interessante è la convergenza di prezzo per i collegamenti in fibra ottica realizzati con sovvenzioni statali al prezzo del collegamento in rame, perché è vero che non è stata prevista alla fine una deadline, come dicevi tu, della rete in rame, cioè di fatto la rete di Telecom Italia, ma questo provvedimento che dovrà essere preso, è stato annunciato, è già scritto nelle conclusioni del Consiglio dei Ministri. Se ci sarà questa convergenza, è chiaro che gli operatori avranno tutto l'interesse a investire nella fibra ottica, perché lo Stato dice poi alla fine il prezzo deve essere uguale, quindi il cittadino dovrebbe essere incentivato a comprarsi un collegamento in fibra ottica rispetto al rame, con tutti i problemi che sappiamo ha il rame, insomma. E del piano per la banda larga e non solo di quello, abbiamo parlato con la direttrice generale dell'Agenzia Italia Digitale, che è l'agenzia governativa che si occupa esattamente di queste cose. Lei si chiama Alessandra Poggiani, abbiamo fatto una bella chiacchierata, una chiacchierata nella quale ci siamo occupati non solo di questo, ma anche della fatturazione digitale che diventerà obbligatoria per le pubbliche amministrazioni a partire dal 30 marzo e potrebbe creare qualche problema, soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni e le piccole imprese. Un passaggio dell'intervista lo avete sentito nella diretta, ecco l'intervista integrale. I piani approvati sono due, uno sull'offerta e uno sulla domanda. Quello della banda ultralarga prevede sì 6 miliardi e poi ce ne sono altri 6 circa per la crescita digitale, quindi in tutto le risorse destinate sono circa 12 miliardi sì. Nel prossimo settennio, quindi da qui al 2020. Per quanto riguarda la sua domanda, c'è sicuramente un problema anche di agenda setting in Italia sulla necessità della trasformazione digitale. Alcuni durante la consultazione che è stata molto partecipata dei due piani, sia operatori sia associazioni hanno rilevato che i 100 mega erano un obiettivo molto ambizioso al 2020 per l'Italia. Io mi permetto di ricordare che altri paesi europei stanno mettendo in campo piani da 1 giga per il 2020, così come gli Stati Uniti, per non parlare del sud-est asiatico. Forse pensieri lunghi servono a questo paese per capire che le infrastrutture di rete sono equivalenti a quello che potevano essere le infrastrutture ferroviarie o le infrastrutture elettriche il secolo scorso, e non bisogna semplicemente fermarsi all'utilizzo attuale, ma capire qual è la necessità del paese appunto a 5-10 anni e prepararsi prima di arrivare in ritardo, come siamo in ritardo ora per non averlo fatto 10 anni fa. Per essere ancora più chiari rispetto alla domanda che le facevo all'inizio, l'impressione è che ci sia anche un problema di percezione, per così dire, da parte degli italiani dell'importanza di tutto questo, sia da parte degli utenti e forse a volte anche da parte delle aziende, insomma, magari non propriamente nelle teste operative, no? Quelli che lavorano a testa bassa e ne sentono la necessità, quanto piuttosto nei livelli più alti. Ha questa impressione anche lei in questi pochi mesi nei quali è stata in questo ruolo e ha avuto modo di incontrare molte persone? No, assolutamente, infatti le dicevo sì, sicuramente questa difficoltà c'è. Io credo che sia più una percezione, diciamo, della sfera pubblica, per questo parlavo di agenda setting. Credo che anche i media parlino della trasformazione digitale più spesso come una minaccia, sia per le aziende sia per i cittadini. Quante volte ci siamo trovati a vedere telegiornali parlare dei pericoli di internet invece che delle opportunità. Penso che sia più questo, più che una percezione individuale dei cittadini o delle aziende che invece ogni giorno si confrontano con la difficoltà di avere connettività banda a sufficienza anche per le loro esigenze quotidiane, da quelle che riguardano l'entertainment. Pensiamo al fatto che operazioni come Netflix non sono ancora possibili in Italia proprio anche per la difficoltà di avere una banda diffusa, o anche per le aziende che si trovano a confrontarsi col mercato globale e non riescono, sia per problemi culturali e di competenze, ma anche per problemi infrastrutturali certe volte in alcune aree del paese. Senta una cosa, all'inizio ci faceva questa distinzione, no? Tra quello che è stato approvato ieri, 6 miliardi per la cosiddetta banda ultralarga, dall'altra parte 6 miliardi, ci diceva, per la crescita digitale, così si chiama, e che cosa si intende esattamente? Si intende il piano di sviluppo servizi sia della pubblica amministrazione sia di supporto alle aziende, soprattutto quelle piccole, che sono il 99% delle nostre aziende, proprio per sviluppare la domanda, per aumentare la percezione di necessità che occorre proprio per sviluppare poi gli investimenti privati sulle infrastrutture. Sono 4 miliardi e mezzo i fondi europei destinati al piano crescita digitale, che riguardano il grande progetto denominato Italia Login di infrastruttura centrale per tutti i servizi pubblici, la realizzazione di un'anagrafe unica, il sistema pubblico di identità digitale, ma anche lo sviluppo di competenze digitali per la trasformazione delle imprese, soprattutto quelle piccole che non sono riuscite a sfruttare i benefici delle tecnologie. Pensiamo che il nostro paese ha una quota solo del 5% di aziende che vendono online, per fare un esempio il più macroscopico. ma anche per lo sviluppo nelle città, soprattutto quelle che adesso diventeranno aree metropolitane, dei servizi di Smart Cities. Quindi a questo saranno destinati sostanzialmente i 6 miliardi. E quindi ci spiegava, e questo mi interessa da ultimo, che c'è anche un lavoro da questo lato appunto su quello che dicevamo, ossia la percezione. Ci sarà anche un'operazione quindi di sensibilizzazione vera e propria sul territorio? Come funzionerà? Assolutamente, noi siamo soprattutto sul piano crescita e quindi di sviluppo di servizi in costante lavoro con le regioni. La conferenza Stato-Regioni è stato uno dei soggetti che maggiormente ha partecipato anche alla coprogettazione degli interventi. Il piano competenze digitali prevede una diffusione territoriale e anche un nostro sostegno alle amministrazioni molto puntuale. L'abbiamo visto anche l'altro giorno per la fatturazione elettronica, abbiamo cercato di innescare un processo dove in ogni provincia italiana ci siano dei volontari civici sostenuti dai funzionari dell'Agenzia per l'Italia Digitale e delle altre amministrazioni come l'Agenzia per le Entrate coinvolte in questo processo, che aiutano concretamente gli operatori a passare dall'analogico al nuovo, più semplicemente, con meno disservizi e con meno lentezze rispetto al pubblico di quanto è successo in passato. La fermo perché questo è un punto che mi interessa. L'altro giorno avete fatto un grande evento anche con il governo dedicato proprio alla fatturazione elettronica, che per le pubbliche amministrazioni diventa obbligatoria dal 30 marzo. Le chiederei qual è lo stato dell'arte, perché abbiamo intervistato quel giorno un responsabile dell'ANCE, dell'Associazione Comuni Italiani, e ci ha detto: beh, è chiaro che le città più grandi sono più preparate, anche perché hanno più competenze all'interno, sono pronte da prima, alcune cose le fanno da tempo, qualche problema naturalmente ci sarà per quanto riguarda i piccoli comuni, immagino soprattutto nel mezzogiorno. Ci può dare un quadro di insieme generale per capire in che situazione siamo? I comuni in Italia sono oltre 8.000, di questi tantissimi sono sotto i 15.000 abitanti, sicuramente per quei comuni è più difficile. Quello che abbiamo fatto noi nel corso del mese di dicembre e gennaio, abbiamo somministrato un questionario e sentito tutti i comuni per capire quale fosse lo stato dell'arte. Circa il 60% dei comuni ha avviato con successo tutte le procedure necessarie e quindi ci fa stare più tranquilli. Per il 40% dei comuni, a ragione l'ANCI, soprattutto quelli piccoli, abbiamo appunto innescato preventivamente, quindi cercando di aiutarli prima piuttosto che dopo, un processo in ogni provincia di sostegno attraverso volontari civici con la rete Digital Champion e attraverso le camere di commercio, che andranno in tutti i comuni, sia per gli operatori del comune, ma anche, non dimentichiamocelo, per le imprese locali, che spesso sono piccole e che anche loro nel ciclo attivo dovranno fatturare elettronicamente per poter essere pagate, e che hanno bisogno dello stesso sostegno dei comuni che devono ricevere la fattura. Brevemente poi la lascio, ma per chi non ce la fa, ci saranno dei comuni che non ce la faranno inevitabilmente, insomma, essendo il numero di comuni quello che si diceva, insomma, circa 8.000, c'è possibilità di una sorta di proroga o il 31 marzo è la scadenza ultimativa? Il 31 marzo è la scadenza ultimativa. Dal 1 aprile non sarà possibile pagare fatture non elettroniche in nessuna amministrazione italiana. Ci saranno sicuramente dei comuni più in difficoltà, noi li aiuteremo, però non è il momento delle proroghe, è il momento di metterci insieme e lavorare. Quelli che avranno più difficoltà troveranno nell'agenzia, nelle camere di commercio, in tutta la rete che abbiamo predisposto anche con l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e Finanze, tutto il sostegno di cui avranno bisogno, e magari ci metteranno 15 giorni in più ad andare a regime, ma sono certa che entro il primo trimestre, entro giugno e quindi entro la prima scadenza delle fatture, avremo tutti quanti a bordo in questa avventura che è necessaria per l'ammodernamento della macchina pubblica, ma anche per iniettare più innovazione nelle piccole aziende che adesso dovranno predisporre la loro gestione in maniera totalmente formalizzata. Ed è tutto per il podcast di Effetto Giorno. Ringrazio oggi per la parte tecnica Paolo Corleoni, un grazie come sempre a tutti voi per averlo scaricato. Se non l'avete fatto, se l'avete scaricato per caso, iscrivetevi in maniera da avere una piccola notifica che vi dice Il podcast di Effetto Giorno è arrivato. Non disturba, ve lo trovate sul vostro smartphone o sul vostro browser ed è molto semplice. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, la pagina Facebook, il mio account Twitter, Simone Spezia. Ci si risente in diretta alle 13.00.